Finest, wonder what Optimum Prime is. Never underestimate your highness. Stripped in melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit at the highest. Do it, I will, do it, I will. If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Better be happy, love, for the betcha I chill. Sugli 87.9 di Radio Onda Rossa sta per iniziare una nuova puntata di Likewise, la numero 23. Maggio, hai dimenticato di dirlo. Questa è Radio Onda Rossa, noi siamo Donna Sonica e Pinklo per un'oretta di musica insieme. Però perché non volevo sbagliare giorni. They talk, I know they can't show. Please believe, believe, they deceive me. They flex, they flex, they flex, I know they can't see me. Conoscendo i nostri proverbiali ritardi sempre sulla scaletta, io direi di iniziare. Ricominciamo da dove abbiamo lasciato l'altra volta. Questo per i proverbiali ritardi. Per i proverbiali ritardi non vi abbiamo raccontato un po' di cose di questa band, quindi ve lo facciamo ascoltare e ti cogliamo l'occasione per ascoltare un altro pezzo insieme. Loro si chiamano Libra Libra, il pezzo si intitola Here's to You, Mr. Robinson. Control to my nature, and the world's about to melt down. Libra, here's to you, Mr. Robinson. Questo, diciamo, pop powerhouse experimental britannico. Loro sono Beth Cannon and Joe Keppel, arrivano da Brighton e questo pezzo è tratto da un EP uscito da pochissimo, tipo sì, qualche giorno fa, che si chiama Modern Millennial. E questo pezzo, il loro poi, secondo EP. Che è il loro secondo EP, esatto, e questo pezzo è in particolare dedicato a un personaggio molto interessante della scena politica tamarra britannica, che è questo Tommy Robinson, che è appunto un attivista, un politico di estrema destra, insomma, con tantissime condanne per violenza, attacchi, risse e cose molto molto gravi, e appunto Welcome to Hell, come gli augurano Libra Libra. Ovviamente un duo molto impegnato, molto, diciamo, oltre ad avere questo suono super catchy, super divertente, super anche sperimentale, con questo pop ballabile ma anche, insomma, ricercato, per niente facile, testi anche molto impegnati. Super impegnati. Beth ha dichiarato che Modern Millennial è stato scritto nel mezzo di una vera e propria crisi sua personale. Pensava di essere arrivata, insomma, a un punto della sua vita in cui tutto era fermo, non sapeva se era viva, se stava sognando, e si sentiva di essere il suo più grande fallimento. Era in attesa di fare un'operazione importante alle ovaie e, insomma, lei dice sono crollata. La cosa buffa è che pensavo di aver toccato del fondo, ma in realtà avevo toccato solo la superficie del fondo, ecco. Incapace di nascondermi, quindi che cosa ho fatto? Ho scritto, cioè incapace di spiegare a chi mi circondava, ho scritto. Incapace di comprendere le mie stesse verità, ho scritto. Insomma, così è nata la raccolta di canzoni che offrono una visione del mio personale spettacolo dell'orrore, ma anche un commento su quanto siamo sistematicamente fottuti, ha detto lei, non l'ho detto io. E perché durante il mio crollo personale anche il mondo è crollato, dice lei, e non sono solo io, collettivamente siamo in grave difficoltà, intrappolati in giochi di potere alla mercé di pazzi di destra, dei Tories, dei reali, della guerra nucleare globale. Ovviamente lei parla della situazione, certo, inglese, ma penso che, insomma, tolti Tories ci possiamo mettere la, i nostri, e la regina, certo, e siamo lì. Quindi, e sì, quindi questo EP dice per tutti coloro che cercano di tirare avanti e di non dare un senso a tutto questo, ma di trovare un po' di pace in mezzo alla follia. Bellissima band da vedere dal vivo, quindi se vi capita l'occasione, Libra Libra, non dimenticate, mettetela sulla vostra, diciamo, magari sulla un'agendina, una tappa dei vostri viaggi, se possibile. Prossimo pezzo per non perderci, siete all'ascolto di Likewise, questa è la nostra puntata 23, questa è Radio Onda Rossa. Il prossimo pezzo è Sara, è suonato per voi da Sara Hebe e Anna Tiju, si chiama, non lo dirò mai bene, Almasen de Datos. Hey, hola, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Anita, yo no sé si quiero esto, una casa hecha de ventanitas. Me anula, todo el día miro afuera y al final me siento insegura. Cada vez más cosas para hacer, no me gusta. Merchandising para tener más escucha. Si no estoy en la playlist, no existo. ¿Quién está de DJ y por qué no me pincha? Amiga, ya no sé si seguir con esto. Estoy pensando en poner un barcito. Necesito socia y un lugar, me veo sacando sour y promo de completo. Vendo, vendo, vendo, vendo. Vendo esto y todo lo que tengo. Quiero mantener a mis fans contentos. Que no me dejen de seguir, que me muero. Estamos así todo el día unboxing. Ahora soy una marca y mi música es marketing. Quiero vender hasta donde nadie compra. Al final esto no es arte, mami, it's branding. Palabras clave, rápido, fácil. Nuevo lanzamiento exclusivo. Si no estoy con los números, no llego a ser mi propia jefa, mi propio CEO. La industria musical no me quiere. Bebo, Spotify, Deezer, Apple. Me quemo las pestañas admirando al mainstream, pero no te encontrado. Siempre independiente, agencia artificial. artificial, tráfico de información. Romper el algoritmo y que se escuche esta canción. Pegar en la Big Data un streaming bien top. Mira, mi contenido está vacío, así es mejor. María, ya me estoy cansando del barcito. Están todos drogados y nadie compra los completos. Ahora nadie come, se alimentan de conceptos. Quiero ser digital, poner un almacén de datos. ¿Te parece? No sé qué hacer. Me tiene mal esto. Ana, dímelo. Bling, bling, digi, bling, marketing, branding. Pero qué pasa, puro lip sync. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo. Puro. Parece talla, tremenda batalla. Traigan los subtítulos, mi cabeza on fire. Nadie le interesa si rapeamos de cabeza. Que cuando se piensa peligroso pa' la empresa, pa' el empresariado, todito este mercado. No tenemos número, pero tenemos tumbao. Bim, bam, boom, mami, mami, boom, boom, boom. Tengamos ese barcito pa' la gente común. Digital, animal, abajo el capital. La moda artificial, bailemos a lo marginal. Dame tú la señal, pongamos ya al azar. Un hit criminal, sin editorial. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado. Y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado. Y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado. Ahora nadie me da bola. Y que ahora nadie me da bola. Y que ahora nadie me da bola. Y que ahora nadie me da bola. Y que ahora nadie me da bola. Sarebbe anti-show alla mesen de datos, tratto dall'ultimo album di Sarebbe che si chiama Susi e Estrella, uscito praticamente ad aprile. Mese scorso, in primavera. Inutile dirlo, autoprodotto, e siamo anche contenti di dirvelo perché in realtà possiamo darvi un appuntamento per vederla dal vivo e andare a ballare. In dal questa vivo. Città, non esatto. Chissà dove. Cioè, almeno, quindi vabbè, ci spiace per tutte quelle che ci ascoltano fuori dal raccordo, dal grande raccordo anulare, però spesso per una volta possiamo dire che l'11 giugno sarà in concerto ad Acrobax, e quindi insomma è assolutamente d'obbligo andare a ballare la sua musica. Compositrice, musicista, cantante e personaggio incredibile della scena hip hop argentina e non solo. Femminista non solo di, diciamo, di fatto, ma anche proprio di definizione, di autodefinizione, per quello l'ho detto. Esattamente, e diciamo è una musicista che ha già all'attivo tantissimi concerti, un po' di lavori. Questo è il suo, te lo ricordi? Questo è il suo terzo disco, e quindi insomma ha fatto ballare un sacco di gente, e sicuramente diciamo il suo lavoro è molto conosciuto, almeno in certi ambienti. Anna Tijoux, che ve lo dico a fare, anche lei cantante super conosciuta, super passata anche da queste parti, soprattutto il martedì, cantante franco-cilena, e quindi insomma questo connubio ci sembrava assolutamente non ce lo potevamo perdere. No, lei ha iniziato ovviamente a comporre giovanissima, già nel 2007, e poi ha iniziato quindi il suo primo disco, l'ha pubblicato alla fine del 2009, ha suonato tantissimo, come diceva Donna, a Buenos Aires, in Argentina, e poi in realtà si è cominciato a spostare per tutto il Sud America. Nel 2010 è stata invitata al collettivo di cultura libera del Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre, e quindi stiamo a parlare proprio delle cose di una vita fa. E nell'ottobre dello stesso anno invece è stata invitata nel collettivo hip hop Revolución de Caracas in Venezuela a rappresentare l'Argentina. Ha pubblicato il suo secondo disco nel 2012, quindi in realtà è tantissimo che non pubblicava un disco sì, intero, esatto. E che era Puentera, e ovviamente vuole sempre fare queste cose in maniera autoprodotta. Se avete un po' intuito le parole del disco, cioè della canzone che abbiamo messo, era tutta una critica all'establishment dell'industria discografica. L'inciso in cui dice noi non siamo di moda, cioè non passiamo di moda perché non siamo mai state di moda, quindi non ci tange questo modo di... Che è una cosa che stracondivido, infatti cioè, quando la diciamo ti vesti alla moda, dice no, veramente io mi sono sempre vestita così. Cioè, non lo so, è la moda che è arrivata da dove sono arrivata io, ma tanto domani quella se ne va, io comunque mi rivesto sempre così. Per alcune di voi che ci state ascoltando, il suo nome non è nuovo, come non è nuovo quello di Anna Tijoux, ma per altre sì, invece noi vi invitiamo ad ascoltarla. Hanno fatto, diciamo, fanno la storia dell'hip hop in lingua non inglese, che, cioè, insomma, che passa molto dalle nostre parti, voglio dire, quindi la lingua spagnola, e poi nel caso, diciamo, delle varie altre degli altri paesi del latini è assolutamente fortissima, abbiamo ascoltato tante cose, quindi insomma, voglio dire, per alcune è roba conosciuta, ma per altre assolutamente da approfondire. Prossimo pezzo, vai, ci siamo? Iso, Bloomsday. Bravissima, che aspettiamo fino alla fine. Loro si chiamano Bloomsday, vengono da Brooklyn, sono un duo composto da James Garrison e Alex Howard, e sono in realtà un duo giovanissimo che si è formato solo 4 anni fa, 3-4 anni fa. Nel 2019, quindi 3 anni fa. La voce che avete ascoltato è di Iris, stavi raccontando tu, magari era carina questa cosa, insomma, questi sono due singoli che sono tratti da quello che sarà il loro primo album di debutto, esatto. Che sta per uscire, in realtà, cioè uscirà, sì, il 10 giugno, 10 giugno sta per, sì, io sto già al Pride quindi per me sta già per, sono già là, e ricordiamo 11 giugno Pride Roma. L'album di debutto che si chiama Place to Land, ed è stata una, ed è una raccolta di canzoni che lei ha scritto in realtà circa negli ultimi 3 anni, che sono coincisi col suo momento, periodo di transizione, e quindi nell'album e nelle canzoni racconta tutti, insomma, i sentimenti e le emozioni che l'hanno che ha vissuto in questi 3 anni rispetto ai cambiamenti, alla perdita, ai luoghi, ai ricordi, alle persone, a, insomma, alle cose nuove, esatto. E sì, insomma, dice: segue la mia persona di transizione come persona trans non binaria. E se, in realtà le dice: me ne sono accorta un po' poi alla fine, cioè dopo che, insomma, l'album era pronto e completo, e il punto di svolta è stata una canzone che abbiamo di sottofondo, che si chiama Face, che mi ha spinto a liberarmi, dice lei, del mio vecchio io per entrare in quello nuovo. Non è un caso che ho usato James Garrison all'inizio e Iris dopo, in realtà è Iris James Garrison il nome completo, della voce, sì, che avete ascoltato, e il pronome con cui ha scelto di definirsi è they, quindi loro, ce lo dobbiamo ricordare, lo sapete che nella nostra lingua è sempre un po' complesso usarlo per, diciamo, raccontare delle storie, quindi insomma, però ci abitueremo, lo faremo come lo facciamo come anche punto di impegno. Allora, volevamo ricordare qualcosa, sì, intanto uno speciale, perché sta per, sì, arrivare un secondo speciale di Likewise. Ci avevamo preso gusto, in realtà, in occasione, in arrivo della festa di Radio Onda Rossa, che come sapete tutti il 24 maggio compie 45 anni, che non so proprio un'età da ridere. Esatto. Noi faremo uno speciale di Likewise domani pomeriggio, intervistando la regista, non so se lei, regista, sì, sceneggiatrice e produttrice, esatto, infatti volevo sapere se c'era tutta il trittico del documentario Sisterhood, che è un titolo che già ci piace proprio a prescindere. Sì, esatto. Ma in realtà il documentario è bellissimo, quindi dovete, sì, venirlo molto a vedere, e sarà proiettato, sì, se per caso ve lo siete perso qualche mese fa, che è stato in proiezione, diciamo, al Cinema L'Aquila a Pigneto, se ve lo siete perso e state ancora dicendo mannaggia, lo volevo proprio vedere, ecco, lo potete vedere sabato alla festa di Radio Onda Rossa, e potete ascoltare l'intervista invece a lei domani sera, uno speciale Likewise, ma in realtà anche ora, sì, sabato mattina ci sarà un'intervista con lei che farà il concerto la sera e che ha curato la colonna sonora del documentario, esatto, nonché la canzone originale fichissima che c'è nel documentario, che si chiama Sisterhood. Quindi insomma un sacco di cose, ma non ci sono solo queste, ci sono un sacco di concerti da venire a vedere, e tutto, un sacco di concerti da venire a vedere, cose da mangiare, cose da bere, tempo per stare insieme, per raccontarsi, belle persone sì, da incontrare magari per una volta, farsi due chiacchiere, e, ed è soprattutto, ed è una cosa importantissima, l'occasione per finanziare questa radio che dopo 45 anni ha assolutamente bisogno di voi, non smetteremo mai di ricordarvelo, abbiamo bisogno dei vostri soldini per farla funzionare, per farla andare avanti, qui nessuno ci guadagna una lira, anzi tutti quanti ci autotassiamo, ma è giusto così, per avere una voce libera come quella di questa radio. Prossimo pezzo, loro si chiamano Body Type, il pezzo si intitola Buoyancy. Body Type, Buoyancy, tratto dall'album Everything is Dangerous but Nothing Surprising, che uscirà il 20 maggio per la Poison City, band australiana di Sydney. Di Sydney. Quattro musiciste super super super divertenti, guardate anche i loro video che sono veramente coinvolgenti, super energici. Sophie McComish, Annabelle Blackman, Cecil Coleman alla batteria e al basso, Georgia Wilkinson Derums. Loro quattro. Allora, dice, sono state fortunate a trovarsi a Sydney, perché dice è un posto molto spartano in cui è difficile fare amicizia quando si è un po' più grandi e non si è mai suonato uno strumento. Loro sono proprio una di quelle do it yourself, non abbiamo mai suonato uno strumento ma ci abbiamo voglia di fare musica, proviamoci. E mi sembra che comunque se la cavino bene, dai. Assolutamente, ci piacciono molto. Non vediamo l'ora di ascoltare l'intero album, anche se insomma un po' di singoli sono usciti per presentarlo. E quindi niente. Cioè, ci piacevano molto, ci sembravano molto energiche, ci stanno bene per. Mi diverte che i due EP che sono usciti prima, insomma, di quest'album di debutto che arriverà, si chiamano EP1 e EP2. Certo. Basic, non come puoi piace sbagliare. A te poi tra esatto, l'altro, no? Perché esatto. Tu lamenti sempre che questi gruppi, cioè, non sanno più che inventarsi per mettere un titolo lunghissimi, complessi, complicati. EP1 e EP2. Esatto. Facile. Anche loro se li ritrovano, facile. Ah, ovviamente anche loro super impegnate, super femministe, dicono stavamo cercando di occupare lo spazio che è così stereotipicamente maschile, hanno scelto una casa, un'etichetta discografica che ha nel suo roster diverse band di donne. Ricordiamolo, la Poison City. Esatto. Si è andate a spulciare cosa fanno, così trovate altre band e ci rubate il lavoro. Però no, però ce le potete segnalare a likewise@andorossa.info, che magari invece le passiamo direttamente in onda, in diretta Likewise. E sì, dovevano pubblicare in realtà l'anno scorso, poi con la pandemia hanno rallentato un po', specie perché anche forse memore dei discorsi che facevamo la volta scorsa, immagino che i nostri ascoltatori fedeli sappiano di che stiamo parlando, di tutta la questione di quanto è difficile sostentarsi per gli artisti e gli artisti indipendenti. Non potendo fare il tour di promozione del disco, hanno aspettato un attimo per farlo uscire, e infatti adesso sono e saranno in giro. Ho visto che hanno suonato questo fine settimana un festival che c'era lì in Australia, quindi a Sydney. Quindi anche perché uscire dall'Australia è tanta roba. Esatto. Quindi, non so neanche se ancora si possa uscire, perché quelli sono. Sommatti. Ok, allora dopo Body Type cambiamo genere, strano perché non succede mai a Likewise, no, lo sapete che a noi ci piace spaziare moltissimo. Questa storia è bellissima peraltro, lei si chiama Julia Sophie, il titolo della canzone Dial Your Number, sempre un EP ma ne parliamo dopo. This could be the last time. Julia Sophie Dial Your Number, dal suo primo in realtà EP, non sì, in realtà inciso nella storia, perché è una musicista di lunga data in realtà. Ora, ma il suo primo EP che incide e, sul suo, su, con il suo nome Heartbroken, sì, col suo nome Julia Sophie. E mi è divertito perché ho scoperto per la prima volta come si faceva il cuore rotto usando, diciamo, i simboli. Beh, sono contenta, sarà contenta lei di averti, di aver condiviso con te questa conoscenza. Questa conoscenza. Insomma, lei in realtà ha avuto una lunga carriera, cioè non ha avuto una lunga carriera, ha iniziato a suonare tantissimi anni fa, negli anni 90 però, e addirittura, insomma, ebbe un momento di gloria, nel senso che aveva un duo di garage rock che si chiamava Little Fish, che era stato scritturato dalla Island sotto l'Universal, quindi mega mega meglio, super casa sì, discografica, mm-hmm, yuppie yuppie yeah. Era sostenuto da artisti come Courtney Love, ha supportato il tour britannico delle Hole nel 2010, Linda Perry, insomma, boom, stelle. E poi pieno, poi questi insomma, poi il duo si è sciolto nel 2012. Lei in realtà ha avuto, insomma, è stata abbastanza provata l'esperienza con la grande etichetta discografica, e anche traumatizzata un po', quindi poi in realtà ha fatto delle cose più piccole, autoprodotte, altri progetti, e per alcuni anni ha proprio lasciato perdere, ha detto no vabbè, se non ne voglio sapere, provo a sistemarmi, ha avviato un'azienda di saponi organici e ha detto ok, vabbè, forse sto bene così. Ma poi che è successo? Che a un certo punto è arrivata la Brexit, lei non è in realtà inglese, lei sì, è anglo-francese. Ha vissuto la sua infanzia tra Oxford e Lione, e che è successo? Ha detto vabbè, sta storia della Brexit, dove la metto, dove la metto, dove non la metto, ma mi rimetto a scrivere canzoni. Esatto. E così un po' è andata così, e quindi ha ricominciato. Questa urgenza di raccontarsi, di raccontare quello che succede intorno a noi, è una cosa importantissima nella musica, è fondamentale, ma appunto tanto da determinare addirittura il desiderio di ritornare a fare, diciamo, musica, cioè a rimettersi in gioco, quindi a trovare una produzione. Questo disco esce per una etichetta che vi segnalo, adesso non mi ricordo, si chiama Beat Palace Records, che è un'etichetta fondata da Anna Pryor, che è la batterista, è stata la batterista dei Metronomy, adesso sta lavorando da sola, ma insomma anche lei è un personaggio molto interessante della scena musicale. Quindi insomma, in realtà poi questa urgenza, questo desiderio crea nuove connessioni, e quindi apre nuove possibilità, quindi insomma è una cosa che ci piace sempre ricordare. Sì, infatti lei dice che adesso, così, anche visto i riscontri positivi che sta avendo, sta lavorando un terzo EP e spera comunque di trovare la possibilità di pubblicare un disco intero. Siccome poi ci bacchettano che parliamo troppo, sono le 19:37, siamo ancora al brano numero 6 della scaletta. Io loro direi... si chiamano Mama Speeding 72. Feeling 72, tratto dall'album che uscirà il 1 luglio e si chiamerà Household Name. Sarà il terzo disco. Già il loro terzo disco, giovane band indie rock, si potrebbe definire così, insomma, di Los Angeles, Etta Friedman e Allegra. È un nome bellissimo. Etta Friedman e Allegra Weingarten, quindi insomma ci sono delle cose comuni, giri, che appunto giri. Amichette, si sono conosciute a scuola e poi hanno cominciato a fare musica insieme e si sono unite al batterista Zach Capiti Fenton, che ce la cercavano soltanto con un nome difficile da pronunciare, e hanno fatto 3 album tutti molto carini, insomma lo so, riconoscete, questo è un po', diciamo, io un po' spingo su questo indie rock che mi piace moltissimo, che mi mette allegria, un po' così, quindi insomma sì, è vero, sono un po' io che rompo le scatole e cerco sempre di spingere per far ascoltare queste band. Però vabbè, dai, loro carini, hanno pubblicato appunto il primo disco nel 2018, il secondo nel 2020 e serenamente nel 2022 il terzo, quindi hanno capito benissimo come funziona. Creatività che va. Sono le 19:42, questo è Likewise, il prossimo pezzo si chiama Nilotic, lo canta Elsie Va Meglio e adesso ce lo ascoltiamo. Entity. Stand down, the queen's here, exotic in identity. Can never be the centerpiece if you were never meant to be. Lathered in the jewels and the gems, I'm the masterpiece. Just admit I'm the golden piece. I'm you still in the making, but I know what be mine. Take me, I'm divine, take a sip, it's tea time. I'm here to take my place in what was rightfully mine. I'll have all the gold and the diamond from the guinea. Give me back the tones and the style and in Somali. Or run it back, the tea that you sip in Malawi. That ain't even half of it, so Benny, hurry, hurry. Let me hold a congress for the people in the back. Delegate a new position, it's a counterattack. Rip up the monarchy, a warning of attack. Yeah, we coming back like we never left, matter of fact. Escort the convoy formation to that lead. Recruit the ones with the minds that we need. A concept too that they can never run. Bars they shoot, they be irrelevant. As they folks be killed, they bros be killed. And though they bleed, we need to proceed. We stand to defeat, defending the peace. Double that, firm at the feet, we never fatigue. Double that, reigning supreme, we king of the team. Double that, queen of the east, you better believe it. Double that. I'm out to find a missing link. equate the inequivalent. The massacre before your eyes and you're still ambivalent. Moving in increments, at this state it is crippling. No logical, rational state of mind, it's a predicament. It ain't immediate, cause half of you're conceited. Assassinate the people who aided to your existence. Now watching from a distance, sheltered lovely by the system. That execute a black man and call police the victim. A pledge of allegiance, practice what you be preaching. Fall up in that new legion, marching up, we stand beating. They're taking over that region, still fighting for that freedom. That's our goal, to unleash them. Aiming from the village, ran up, the division won't know. Nope, won't stop, it's a given. Somebody get them wrapped up in the vision. Can't stop, won't stop, now for the vision. Marked up, bruised and scarred. Trace back who we are, yelling free we. Came up too far to deny who we are. Atacama, never forget who you are. Elsie va meglio, Nilotic, bellissimo album che in realtà c'eravamo un po', c'era scappato tra le varie cose che vogliamo sempre mettere, che sono tantissime, e quindi insomma ve l'abbiamo proposto, è uscito alla fine del No, però non è vero, la title track è uscita a novembre, ma in realtà l'EP è uscito ad aprile. Ah, ok. Quindi no, non ce la siamo persa. Erano sbagliate. Mi sono ricordata che avevo visto, sì, è vero, era il singolo, uno dei singoli, cioè perché l'EP è di 7 pezzi, credo, perché ha i due singoli che sono usciti, che uno è il Nilotic, l'altro è River Nile, sì, e poi altri 4 brani, 6, matematico un'opinione, per me sicuro, però non ci fate caso, però sì, però lei è giovanissima. Artista originaria del Kenya? Del Kenya, esatto. Correct, che vive però ad Adelaide in Australia, non so, oggi siamo in Australia, non so perché. Sì, Australia e Anglo-Francia, insomma, sì, gira così oggi. Sì, lei è nata a Nairobi, però intorno all'età di 7 anni è emigrata in Australia. La sua musica, come avete potuto sentire, è influenzata dalla tradizione gospel, da quella rhythm and blues, ma anche ovviamente da quella, insomma, hip hop più specifica, cioè nel senso hip hop africana, sicuramente, cioè, c'è senso, in parte, no, hip hop africana, volevo dire, in parte nel suo lavoro, soprattutto in questo lavoro, c'è, cioè, anche uno studio, un riavvicinamento a certe sonorità e soprattutto a certe tematiche. È un'artista impegnata, sicuramente, diciamo, basta ascoltare l'inciso del pezzo che abbiamo ascoltato, Nilotic, in cui praticamente fa una specie di lista della spesa al contrario. Quindi allora mi ridate i diamanti e l'oro dalla Guinea, poi vorrei il tè che vi siete presi dal Malawi, quello che è stata, eccetera. Quindi insomma molto molto interessante anche quello che scrive. Adesso non ho il testo davanti, ma insomma mi ricordo alcune frasi così, quindi insomma veramente un bel lavoro, e un lavoro che volevamo presentarvi anche perché è bellissimo tutto, quindi ascoltatelo assolutamente e godetevelo. Sì, sì, lei è un'altra artista molto molto impegnata, con un gran punto di vista, e sì, produce anche la sua musica, ha diretto anche lei il video del suo singolo, quindi anche lei, diciamo, un do it yourself abbastanza spinto. Molti dei pezzi, diciamo, scritti per questo EP vengono, diciamo, da tutta la emotività scatenata da Black Lives Matter, ma parte da quello in realtà. Poi, come racconta lei stessa in un'intervista, basta cercare delle notizie di quello che succede in Africa tutti i giorni, e quindi insomma quello che succede in America tutto sommato sembra poca roba. Anche quello che succede in Australia, che molto spesso infatti lei dice è anche raccontato poco, ma non pensiamo che la situazione sia diversa. Infatti comunque nella sua musica esplora, insomma, racconta l'effetto che ha avuto il razzismo su di lei e sui suoi coetanei. Nella canzone che affronta appunto questioni di cultura, razza, brutalità della polizia, ha citato Tabenga, Trayvon Martin, George Floyd come ispirazioni del suo brano. Ma siccome non dobbiamo parlare troppo e ci abbiamo anche pochissimo tempo per farvi ascoltare gli ultimi due pezzi, loro si chiamano Vanishing Twin, Big Moonlight. Gekko. Lo volevo dire, che è, diciamo, il titolo in giapponese di questo pezzo e che è anche il titolo dell'album, che si chiama poi in inglese Big Moonlight, e loro sono Vanishing Twin. Terzo disco. Terzo omonimo disco della canzone che abbiamo ascoltato. Questa band è abbastanza, diciamo, bello, mi piace la psichedelia. E che prende anche musicisti che arrivano, musicisti che arrivano da tutta, diciamo, da tutto il mondo, cioè Valentina Magaletti, che è una batterista italiana che suona bravissima, avete ascoltato, è veramente incredibile, suona questo pezzo, è stupendo dappertutto. Katie Lucas, che è una cantante polistrumentista di origine belga. Susumu Mukai, che è un bassista giapponese anche noto perché suona in altre band con lo pseudonimo di Zongamin, e Philip Bervalde, tastierista e chitarrista, non mi ricordo dov'è, ma insomma anche lui è abbastanza, suona nei, diciamo, Man from Uranus, mi sa. Quindi, insomma, è una di quelle band di musicisti che si incontrano perché fanno tantissime cose e poi esprimono tutta la parte magari anche più sperimentale, più interessante in quello che abbiamo appena ascoltato. Sì, c'è anche Elliot Arnold al flauto e alle percussioni. Hai ragione. No, anche perché magari si sentiva il flauto e le percussioni, dice, ma chi le suona? Lui. E quindi sì, c'è un gruppo molto... Siamo una parola un po' così sopra, già cioè, cosmopolita. Cosmopolita sembra una parola molto strana, e tra l'altro appunto al, diciamo, ai suoni di questo album che vi consigliamo di ascoltare c'era no, anche, dai, si rilassa tantissimo. C'era anche Michael Cutt di Heliocentrix, quindi insomma c'è anche tutta una parte di influenza africana, di fusion africana che viene inserita, o afrobeat che viene inserita in molti dei pezzi di questo album. Quindi insomma noi ve lo consigliamo, è un bellissimo ascolto. Psych jazz brasiliano, così, perché quando poi non si riescono a dare una definizione, ovviamente ne devo mettere più insieme, ricordano un po' certi stereo, la base, insomma ci sono tanti rimandi. Il primo disco è uscito nel 2016, quindi in realtà ho trovato un po' di roba perché sono al terzo album e sono in giro dal 2015, quindi comunque una band consolidata, cercateli. Vai, prossimo pezzo. Prossimo pezzo, Apple sta e Kaina. Ho abbassato i volumi sbagliati per alzare quelli della canzone. Vabbè. Kaina, il pezzo intitolato Apple. Sugar I could keep. I have so many questions, like what's it like to be? Cause I've been having trouble letting myself see. See, see, see. The beauty in the things I speak, the way my hands hold my drink, the crooked nature of my teeth. Ooh. If I could just take a bite. Ucraina, questo pezzo si chiama Apple ed è tratto dall'album uscito alla fine di marzo di quest'anno che si intitola It Was a Home. Lei è una cantante, songwriter, quindi compositrice di Chicago con origini guatemalteche e venezuelane. Un bel mix, questo è un po', e questa è un po' la tua impronta R&B soul, sì. Questa tua ricerca. Negli ultimi anni sto in fissa con queste sonorità, non ci posso fare niente. Quindi un album, insomma, che ha tutte queste sonorità molto morbide, esplorate, tra l'altro uscito per la City Slang, che è una bella etichetta che ci piace tanto. Non possiamo spendere troppe parole per Kaina, ve l'ascolterete e ci direte voi, perché dobbiamo subito passare all'ultimo per pezzo. Per forza, perché sono le 20, sono arrivate in auto e cose eccitate dall'altra parte del vetro, quindi state per iniziare un'altra ora di musica molto bella con la Tenda Rossa. Suonano anche le campane che dicono che sono le 20, per l'appunto. Come sapete, siamo in diretta e abbiamo prossimo pezzo, Contradictions of Wants. Vai, sì, veloce. P. Rebranding what joy is. si scrive P.I. Se no, non sembra che stiamo dicendo punto, perché lei pronuncia bene, ma P.E. Contradiction of Wants, ve ne parleremo la prossima puntata. Forse, se no non ve ne parleremo più, andatevela a cercare, fate qualcosa pure sì, voi. Cercatevi l'album The Leather Lemon, uscito per la Wildcat Records, marzo del 25 marzo di quest'anno. Insomma, band di New York, ci piacciono un sacco, bellissimo art, sound. No, sì, infatti queste sono le band che piacciono a me perché sono proprio dei Brooklyn. Mi piacciono pure a me, lo vedi che Likewise alla fine ci fa trovare le cose, certo, che ci piacciono insieme. Perché sono dei Brooklyn, sono art rock, punk, bella, quella roba lì. Fanno quello che gli pare e c'è, esatto, una sonorità molto molto belle. Allora, no, vi salutiamo, sotto c'è Sampa the Great che ci accompagna con Oh My Gosh, la nostra sigla. Vi ricordiamo, domani sera alle 19.30 qui su Radio Onda Rossa, in streaming su ondarossa.info, giusto? Sì, per info. Chi non è da queste parti, ci sarà la presentazione, cioè la presentazione è una chiacchierata con la regista, sceneggiatrice e produttrice del documentario Sisterhood, Domiziana De Fulvio. Ho detto tutto bene? Sì. E che è il documentario che verrà proiettato alla festa di Radio Onda Rossa, a cui siete tutte e tutti invitati, voi che siete a Roma o fuori Roma, se volete arrivare, insomma, per 3 giorni per sostenere Radio Onda Rossa 2021-22 alla SNIA. Trovate il programma, come tutti i podcast, come il bando per radio, per sostenere con radio abbonamento, sul sito di ondarossa.info. Cliccate, cercate il programma delle 3 serate. E basta. E poi il compleanno, che in realtà è il 24 maggio. Non so, forse faremo una puntata speciale, strana, particolare di Likewise. Ormai vediamo questi che ci speciali viene... proprio non si capisce più niente. Speciali pure. Della Sonica e Pinco vi salutano. Likewise, vi appuntamento alla prossima settimana. Non sappiamo cosa faremo, ma faremo qualcosa. Faremo sicuramente faremo qualcosa. Bella. Alle 20.15 invece note cose e città. Quindi rimanete in ascolto di Radio Onda Rossa e sostenete Radio Onda Rossa. Ciao! Dai! Oh my gosh.